sia Orlando non sia, attender sia, attende. Ave sto cuor, tu ben lo sai, innamorata spia, abbiarsi in quei rai che accendo d'amor. Pare sembianze, testa di zero mai il mio timore, e col mezzo di cui godo il mio cuore. Ferma, ora, mi conosci? In questa forma un Orlando si tratta. Imprigionare Angelica la bella, pormi al mio bene, metter me in ritorno. Cavaliere infedel, muoven di farmi. Mi diran le follie. Io quel che parlo so quel che dico, e un argilla mi trai. Parla che mai. E sono i mani vostre e prierei. Io non mi temerei. Tu senza tema più tormento avrai, pena in tua morte. Ah, ah, morte, ah, la mia bravura non conosce paura.